Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buongiorno da Maurizio Melis e benvenuti a Mr. Kilowatt. Gli acquedotti italiani fanno acqua da tutte le parti, ma proprio da tutte, soprattutto da dove non dovrebbero. Buchi e squarci nelle tubature sono diventati ormai i principali utenti della rete idrica, la cui riparazione tuttavia costa molto e garantisce scarsi ritorni politici alle amministrazioni pubbliche. E questo vuol dire che si fa pochissimo. Tutto questo mentre il tema del risparmio idrico inizia a porsi in modo problematico, poiché anche le riserve d'acqua in molte zone, come le riserve di quasi tutte le altre materie prime, sono sottoposte quantomeno a stress. Che fare dunque? Bene, Acqua Latina, che distribuisce l'acqua nel sud del Lazio, ha messo a punto un sistema che consente di risparmiare una quota significativa di acqua senza tappare una sola falla e comprimendo per di più nel contempo anche i consumi energetici. Ci spiega tutto come hanno fatto a cogliere questa specie di uovo di Colombo l'ingegner Ennio Cima, direttore tecnico di Acqua Latina. Buonasera Cima. Buonasera. Dunque, siamo di fronte a una politica che proprio lei ha definito di riduzione del danno. Ci spieghi cosa avete fatto? Diciamo riduzione del danno per gestire quello che è il transitorio rispetto a quello che abbiamo trovato con un sistema acquedottistico con delle perdite intorno al 60%, fino ad arrivare a quello che è l'ottimo della gestione dell'acquedotto, che sarebbe intorno al 20-25%. Quindi in questo transitorio, diciamo, quello che ci siamo posti, oltre che iniziare gli studi delle reti, è quello di cercare di stabilizzare le pressioni in alcune aree attraverso l'inserimento di alcune valvole regolatrici di pressione. Ecco, perché è importante spiegare che non basta che ci sia un buco, ma ci deve essere anche una pressione che spinge fuori l'acqua. Più è alta la pressione, più a parità più di buco, diciamo, dalla perdita aumenta la quantità in uscita. Quindi i problemi si hanno, come si può immaginare, soprattutto nelle ore notturne, in quanto nelle ore notturne, avendo un consumo molto basso, il cosiddetto ciclo piezometrico, la piezometrica... Ciclo piezometrico, ossia andamento della pressione, sì, diciamo. Sì, sì, l'andamento della pressione si mantiene alquanto alto rispetto a quello che è il normale esercizio degli acquedotti, e quindi alimentando quelle perdite con delle portate anche il doppio di quelle normali. Con il risultato che i consumi notturni sono praticamente uguali ai consumi... Sì, quelli che ci siamo trovati attraverso un'analisi sia energetica che di portate, che i consumi notturni erano equiparabili a quelli che erano i massimi consumi. Come avete fatto a capire dove intervenire? Diciamo attraverso la modellizzazione della rete, andando un attimo a studiare attraverso gli algoritmi generici un po' l'andamento delle pressioni e delle portate, quindi individuare quei punti che ci permettesse in prima battuta di inserire queste valvole e quindi stabilizzare la pressione. Soprattutto la stabilizzazione è quella che necessita, è quella notturna, che è il momento in cui si ha un aumento della piezometrica nelle ore di minor consumo, questa valvola rallenta l'afflusso, quindi chiudendosi lentamente, quindi cercando di ridurre al massimo la pressione, quindi garantendo in ogni caso diciamo il consumo minimo alle utenze. Quanto avete risparmiato di acqua? Diciamo che questa è un'attività che è iniziato nel 2005, soprattutto dall'inizio del 2005. Mm-hmm. Si partiva da un 131 milioni di metri cubi di acqua prodotta, attualmente siamo intorno ai 116 milioni. Fornendo però lo stesso servizio. Sì, cioè fornendo lo stesso servizio, ma anche molte volte aumentando il servizio, soprattutto nel periodo estivo, in quanto la nostra ha una vocazione prettamente turistica, perché ci trovavamo, diciamo, nelle ore notturne con dei consumi eccessivi, e quindi durante la giornata i nostri serbatoi si svuotavano molto rapidamente. Certo. Quindi questo ci ha permesso di mantenere i serbatoi pieni e quindi garantire anche nelle ore di massimo consumo, soprattutto nei picchi estivi, la distribuzione dell'acqua, le portate necessarie. Ecco, mi pare che un altro punto sul quale vi siete concentrati è proprio invece il pompaggio dell'acqua dalle falde. Certo, diciamo che è stata una conseguenza, intanto inserendo queste valvole di pressione, dall'altra parte nell'emungimento delle falde o dei pozzi avevamo bisogno di un sistema di pompaggio che rallentasse in qualche modo l'emungimento da questi punti di prelievo, quindi, sì. Di questi prelievi. Quindi l'inserimento di sistemi ad inverte, quindi di regolazione delle velocità delle giranti, ci permetteva di rallentare senza dare particolari colpi d'ariete, cioè alte e basse pressioni sulle condotte, di garantire, diciamo, l'equilibrio delle portate idrostatico e delle, quindi avevate delle pompe che invece di partire, dare una botta di pressione e fermarsi, certo, andando sempre al massimo, vanno per più tempo ma a un regime più basso, garantendo una certa, certo, stabilità, cioè, diciamo in maniera dinamica e non statica, ecco. Perfetto. Quindi questo evitava anche l'aumento delle perdite, soprattutto sulle grosse adduttrici. D'accordo. Abbiamo detto indicativamente qual è stato il risparmio di acqua, qual è invece il risparmio di energia elettrica, che insomma è una voce abbastanza significativa del bilancio di un'azienda idrica, perché l'acqua va appunto pompata. Certo, nel nostro caso è la terza voce di bilancio, il consumo energetico. Diciamo pure qui, in corrispondenza a una riduzione del 10% di quello che erano i risparmi di consumi idrici, ci siamo trovati con un risparmio intorno all'8%. Molto velocemente, quali sono i tempi di rientro di un'operazione di questo genere, rientro economico? Allora, su un caso, diciamo, reale realizzato su un impianto di rilancio di Campo Verde nel comune di Aprilia, ci siamo trovati con un investimento di 46.000 euro, quindi molto basso, abbiamo ottenuto un risparmio di circa 20.000 euro. Quindi meno quindi di 3 anni. Con un ritorno di 24 mesi. Va bene, grazie Cima, buon lavoro. Grazie, altrettanto. Mister Kilowatt torna domani per parlare di tariffe elettriche, come si formano e come ottimizzare i contratti di fornitura. Aspetto le vostre email a mrkilowatt@radio24.it e vi ricordo che potete ascoltarci anche tramite podcast. Buona serata.